Giallo 24. In collaborazione con Giallo Mondadori. A cura di Raffaella Calandra. C'è chi li legge sotto l'ombrellone e chi li segue in TV. C'è chi si appassiona a quelli seriali e chi ogni volta cerca un brivido nuovo. Insomma, il giallo piace, ma quest'estate, se invece di metterli in valigia, li scriveste direttamente voi dei gialli, che dite? Noi diciamo di sì. E dice di sì insieme a noi anche il direttore del giallo Mondadori, Franco Forte. Tutti gli italiani leggono gialli, ma quanti saprebbero risolvere un delitto in 3 minuti? La sfida di Radio 24 e il giallo Mondadori è questa: dare agli appassionati la possibilità di diventare loro, per una volta, gli autori di un mistero in 2 puntate. Una adatta alla radio e una che potrebbe entrare a far parte di un'antologia del giallo Mondadori. Tutti i dettagli su radio24.it e ilgiallomondadori.it. Potete provarci fino a fine luglio, senza paura. Il rosso di capelli. Sceglieva così le sue prede il cattivo di questo giallo 24 firmato da Marilu Oliva, il titolo Rosse da morire. Marika non mi crede. Mi ha trovato mezza nuda vicino al suo irreprensibile Giulio. Cosa avete fatto? Vorrei spiegarle che il suo fidanzato è lo psicopatico che aggredisce le donne dai capelli rossi. Le riduce in fin di vita e le stupra, forse perché lo eccita al momento del trapasso. Giulio è salito in casa mia. Doveva solo accompagnarmi perché avevo paura del tizio che al party continuava a fissarmi, mentre lei, Marika, era in macchina, ubriaca fradicia. Poi Giulio mi ha minacciata con una pistola. Se sono in reggiseno è perché lui me l'ha imposto. Vorrei urlare a Marika di scappare, ma non posso. Il terrore mi immobilizza. Giulio sorride mellifluo a Marika. Amore, appena ho messo piede qui, la tua amica ha cominciato a spogliarsi e io ero in imbarazzo. Per fortuna sei arrivata. Accidenti a me che stasera ho scansato quel tizio per l'intero party. Se non fosse stato così insistente, non avrei mai chiesto un passaggio a Marika e Giulio per sfuggirgli. Per sfuggire allo psicopatico sbagliato. Durante il tragitto lei dormiva sui sedili posteriori e io controllavo lo specchietto retrovisore. L'uomo mi seguiva, o almeno mi era sembrato. Così ho chiesto a Giulio di scortarmi in casa e mi sono gettata da sola tra le mani di questo assassino. Marika non mi crede. Qualsiasi verità è inutile di fronte ad una donna gelosa. Anche se offesa, starà sempre dalla parte del suo uomo. Così va da lui e cade a sua volta nella trappola. Giulio ci punta addosso la pistola e si rivela in tutta la sua follia. Nel momento in cui sta per chiudere la porta, una forte spallata la spalanca. L'uscio sbatte Giulio a terra mentre dalla pistola parte un colpo e in piedi davanti a noi c'è l'uomo che credevo fosse il killer che gli rivolge la canna della sua pistola. Polizia, stia fermo o sparo! Le persone non sono mai quello che sembrano. Credevo fosse lui il pervertito, l'assassino delle ragazze con i capelli rossi. Invece ci ha salvate. No, ha salvato solo me. Marika crolla a terra, ferita a morte dal colpo partito dalla pistola di colui che credeva il fidanzato migliore del mondo. Per dirla col titolo di un celebre bestseller, le storie di uomini che odiano le donne si ripetono nella narrativa di genere, ma ancor prima nella cronaca. E su questo si sta concentrando una storica del delitto e scrittrice come Cinzia Tani. Ci sono 2 fenomeni agghiaccianti. Uno è proprio questo, cioè l'uomo che uccide la moglie o la compagna, soprattutto l'ex moglie e l'ex compagna, quindi sono delitti abbandonici, figli dell'emancipazione femminile. La donna autonoma e indipendente decide di lasciare l'uomo per 1000 motivi e molti uomini non riescono a sopportare questo abbandono e uccidono. Poi si uccidono oppure si costituiscono, perché a questo punto loro non hanno più nessuno scopo e spesso purtroppo uccidono anche i figli. Quindi chiaro, questi sono tutti omicidi risolti, ma sono omicidi terribili. E l'altro fenomeno sono gli uomini che cancellano le proprie donne. Quanti casi ultimamente abbiamo visto di donne apparentemente scomparse e poi ritrovate uccise? C'è stato recentemente quella donna incinta di 9 mesi trovata bruciata, e il caso di Roberta Ragusa e così tanti altri. E che quindi inevitabilmente si rispecchia anche nella narrativa. Assolutamente sì, perché tornando al discorso iniziale, gli italiani sono molto bravi nel raccontare la realtà contemporanea ed ecco che allora il fenomeno rientra necessariamente in moltissimi dei thriller, dei gialli di questi tempi.